Il giullare Mingherlino. Il giullare Mingherlino era un personaggino patetico. Non usciva quasi mai dalle mura del suo castello in miniatura, perché tutti ridono di un giullare, specialmente se balbetta. E Giullarino detestava che si ridesse di lui. Tutti i giorni Giullarino se ne stava solo soletto nella sua camera, a leggere storie di cavalieri, di draghi e di eroi. Sognava di essere un eroe e di compiere grandi imprese. Sognava di essere un abile spadaccino, ma era troppo goffo. Giullarino si atteneva scrupolosamente alle regole d'armi, ma inciampava sempre nella sua spada. Un giorno, mentre sedeva tristemente, vide Pauracchio, il ragno brutto e feroce che stringeva tra le zampe la regina bianca. Ha rapito la regina! Gridò Giullarino. Devo avvertire il re! E corse attraverso il ponte levatoio. Corse alla grande scacchiera, ma trovò il re e i suoi cavalieri profondamente addormentati. Svegliatevi! È successa una cosa terribile! Gli scacchi si svegliarono con gran tramestio. Date un cavallo a questo coraggioso! Ordinò il re e consegnò a Giullarino la sua spada. Ma perché? Disse Giullarino. Poi sentì un cozzare d'armi. Era il Cavaliere Nero. Preparati alla tenzone! Tuonò. Tenzone! Gridò Giullarino. Era troppo tardi. Il Cavaliere Nero aveva già iniziato la sua carica. Ma quando vide Giullarino Mingherlino, scoppiò a ridere. Oh, non posso giostrare con un giullare! E rise così tanto che cadde da cavallo. Povero Giullarino. Tutti si beffavano di lui. Gliel'avrebbe fatta vedere. Avrebbe salvato la regina bianca. E galoppò via in cerca di Pauracchio.